Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, ben ritrovati a tutti. Sono tanti i motivi che potrebbero convincerci ad usare meno il denaro contante: il rischio di perdere le banconote, di essere derubati, il rischio di entrare in possesso di biglietti falsi. Anche i tanti batteri che circolano sulla carta moneta che passa di mano in mano, un aspetto al quale sicuramente molti di noi pensano poco, eppure sono anche sporche le banconete perché passano appunto di mano in mano, come vi dicevo. Sappiamo tutti però che il motivo più importante per cui da tempo si parla della ulteriore riduzione del tetto per le transazioni in contanti è che favoriscono l'evasione, ed è proprio per questo che il governo Monti ha inserito nella manovra appena presentata, proprio tra le misure anti-evasione, un ulteriore abbassamento della soglia di tolleranza sull'uso del contante, che dai 2.500 euro a cui era stata ridotta quest'estate la Tremonti arriva ora a 1.000 euro. Saranno quindi vietati i pagamenti in contanti al di sopra di questa cifra, oltre la quale bisognerà affidarsi agli strumenti digitali che ormai sono sempre più diffusi. Per qualcuno peraltro anche molto più comodi, ma non tutti sono convinti. Questo è il motivo per cui alcuni puntano il dito contro un presunto favore che si farebbe alle banche, ma non è solamente questo il problema appunto sollevato. Certo è che con l'abbassarsi della soglia, se in precedenza la cifra restava comunque legata ad eventualità molto probabili, improbabili e rare, ora si fa pian piano sempre più frequente l'incidenza nella vita quotidiana di questo tetto a cui va prestata molta attenzione. Pensiamo ad assegni e libretti al portatore che sono coinvolti dalle modifiche, ma anche ad esempio al pagamento di un collaboratore familiare che non dispone di un conto corrente, ad esempio in caso di una, non so, liquidazione. Tanti altri esempi concreti potrete farceli anche voi, ed è per questo che oggi a Salva Danaio torniamo ad affrontare il tema con le nuove cifre che vengono applicate per raccogliere indicazioni e consigli su come modificare le proprie abitudini senza incorrere, perché anche questo è un aspetto importante, nelle sanzioni previste. Sul fronte antievasione, inoltre, il governo ha anche previsto un nuovo regime fiscale semplificato per conciliare semplificazione degli adempimenti e disponibilità alla trasparenza da parte del cittadino contribuente. Vedremo che relazione c'è tra le due misure. Buongiorno a Giovanni Parente, collega del Sole 24 Ore. Buongiorno a te, Deborah. E buongiorno a Nicola Forte, consulente tributario in Roma, esperto di questioni fiscali per il Sole. Dottor Forte, buongiorno e bentornato anche lei. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, vi ricordo che naturalmente potete scriverci al 349-238-6666, potete chiamarci all'800-24-0024, ci potete scrivere anche all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, e per gli appassionati di social network siamo da qualche giorno anche su Facebook, salvadanaio-radio24, e peraltro molti commenti su questo argomento sono arrivati anche su questo canale. Prima di entrare nel merito delle novità relative all'utilizzo delle contante, diamo un'occhiata alla borsa, perché anche oggi c'è una giornata piuttosto interessante. Sul mercato azionario adesso situazione più tranquilla, i listini erano partiti in ribasso a causa delle motivazioni che abbiamo raccontato anche nel giornale radio. È arrivata questa doccia fredda, l'ennesima da parte delle agenzie di rating. Standard & Poor's ha messo sotto osservazione, con la possibilità di declassarli, appunto 15 dei 17 paesi dell'Eurozona, a rischio addirittura il massimo rating della Germania, e questa è stata sicuramente una sorpresa. Questo implica per il listino tedesco stamattina una perdita dello 0,56%, perdeva in realtà un'ora fa addirittura un punto e mezzo, quindi adesso c'è un miglioramento. Sono sulla parità Parigi, Londra è positiva più 0,23%, Milano meno 0,14%, per cui anche Milano, che perdeva oltre un punto, adesso ha migliorato notevolmente la sua seduta, e anche l'euro sul dollaro ha riconquistato 1,34. I migliori titoli di Milano sono ancora Monte dei Paschi, già ieri protagonista di una fiammata enorme, oggi torna a guadagnare 3 punti. Telecom più 1,16, Eni ha un giudizio positivo di Deutsche Bank, cioè un giudizio buy, cioè comprare, per il titolo rialzo di quasi un punto. Campari più 0,7, Generali più 0,5, in discesa invece troviamo Fondiaria, Azimut che perdono circa 2 punti con Fiat S.P.A., meno 1,8 per la Popolare di Milano ed Impregilo, Mediobanca meno 1,7%. Il differenziale di rendimento fra i titoli italiani e quelli tedeschi è sui 370 punti base. Il rendimento del titolo decennale stamattina era sotto il 6% sui 5,97, quindi almeno da questo punto di vista buone notizie. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi: contante, le nuove regole sulla tracciabilità. scende sempre più in basso la soglia per l'uso del contante. Le misure anti-evasione contenute nella manovra Salva Italia del governo Monti la porteranno infatti a quota 1.000 euro. È la seconda diminuzione in pochi mesi, dopo che a Ferragosto il governo Berlusconi l'aveva già dimezzata, portandola da 5.000 a 2.500 euro. Con l'obiettivo di contrastare il sommerso e l'evasione fiscale, sarà quindi vietato effettuare pagamenti in contanti per importi superiori a questa cifra, incentivando quindi l'utilizzo degli strumenti elettronici, che rendono più semplice e affidabile la tracciabilità delle transazioni. E con l'abbassarsi del limite aumenta anche la probabilità con cui, sempre più spesso, quest'obbligo andrà ad influire nella quotidianità dei cittadini, cambiando regole e abitudini. La soglia inoltre si abbassa fino a 500 euro per i pagamenti effettuati da pubbliche amministrazioni per stipendi e prestazioni d'opera. Non converrà cercare di aggirare questo paletto, visto il rischio di incorrere in sanzioni anche molto salate. Il divieto riguarda anche gli assegni e in particolare la clausola di trasferibilità. La dicitura non trasferibile diventerà obbligatoria per quelli superiori ai 1.000 euro. Coinvolti anche i libretti al portatore non nominativi, quelli con un importo di saldo superiore dovranno essere estinti, altrimenti sarà necessario portare il saldo del conto sotto i 1.000 euro. Sono diverse quindi le nuove regole a cui fare attenzione introdotte in nome della lotta al sommerso, un fronte sul quale il governo ha previsto anche un nuovo regime fiscale per conciliare le semplificazioni degli adempimenti con la disponibilità alla trasparenza da parte del cittadino. Allora, tra le varie prese di posizione relativamente alle nuove misure c'è stata anche quella del mondo del commercio. Questa mattina c'è un'intervista sul Corriere della Sera del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, che naturalmente dice sì, va bene, la misura può anche essere buona, ma il ricorso più diffuso alla moneta elettronica deve essere incentivato anche con una robusta riduzione delle commissioni, appunto, che i commercianti pagano effettivamente per permettere le transazioni con carta di credito bancomat. Siamo d'accordo, Giovanni Parente, su questo, perché effettivamente per qualche società appunto di distribuzione di carte di credito le commissioni chieste al mondo del commercio sono oggettivamente abbastanza alte. Sì, le commissioni variano a seconda di carte di credito, bancomat e alcune tipologie di commercio. Ad esempio, in alcuni settori, l'abbiamo scritto sulle 24 ore la settimana scorsa, si può arrivare al 2% per carte di credito nazionali, allo 0,80 per il bancomat, per alcune carte di credito particolari e straniere si arriva anche al 3,5. Il 3,5 di American Express, ce lo raccontavamo prima a microfoni spenti, proprio parlando di alcuni episodi personali che ci sono capitati, per cui oggettivamente. Però credo che tra le misure, Nicola Forte, adesso poi andiamo a tutta l'altra casistica che interessa anche i nostri ascoltatori, credo che ci sia un comma delle nuove misure varate appunto dal governo Monti che prevederebbe convenzioni per l'uso dei pagamenti POS in modo da limitare l'incidenza delle commissioni bancarie. Possiamo dare questa buona notizia ai nostri ascoltatori oppure non siamo ancora in grado di confermarla? Ma sì, l'articolo 12 lo prevede espressamente, anche se in realtà sembra che queste convenzioni, la sottoscrizione di queste convenzioni sia limitate a un ambito applicativo ristretto della norma, perché la norma prevede anche la necessità di effettuare pagamenti tramite strumenti di pagamento tracciabile a carico delle pubbliche amministrazioni, con una soglia addirittura più bassa, cioè dai 1.000 ai 500 euro. In buona sostanza, quando si paga una pensione di importo minimo, anche se l'importo, ripeto, è superiore ai 500 euro e non ai 1.000, lo strumento deve essere quello tracciabile, quindi l'ambito di queste convenzioni deve essere ancora forse chiarito, specificato, anche se in realtà il Ministero dell'Economia e Finanze e le associazioni bancarie dovranno definire con un'apposita convenzione un conto corrente base. Questo forse per aiutare proprio i piccoli operatori pensionati che da adesso in poi dovranno iniziare a cambiare radicalmente le proprie abitudini, un conto agevolato privo sostanzialmente di costi. Infatti, anche perché noi immaginiamo che chi, e adesso lo ascolteremo subito, un ascoltatore, Giorgio dalla provincia di Verona, percepisce una pensione minima e magari vive di quella, perché non ci dimentichiamo che ci sono molti pensionati che vivono in condizioni di questo tipo, magari non ritengono di avere necessità di aprire un conto corrente appunto per far passare, per far transitare questa pensione percepita, e chiaramente come dire, si chiedono come potranno fare adesso. Sentiamo allora Giorgio da Verona, così definiamo una volta per tutte la questione della pensione da 500 euro e come diventerà tracciabile almeno ai fini della manovra. Giorgio, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, grazie. Sì, infatti è proprio questo. Fra i provvedimenti in decreto c'è appunto il divieto di pagamento da parte della pubblica amministrazione di somme superiori a 500, vorrei sottolineare questo 500, quindi non 1000, 500 euro compresi stipendi e pensioni. Io chiedevo cortesemente se questa norma vale anche per le pensioni in pagamento questo mese. Allora Giorgio, io credo che non si partirà così in maniera indiscriminata, mettendo subito nelle condizioni centinaia di migliaia di pensionati di essere soggetti a sanzioni. Giovanni Parente, che ne pensi? Poi sentiamo anche Forte. Allora, in questi casi è sempre consigliabile, ma penso che comunque tutti quanti, tutto il sistema dovrà un attimino rodarsi. Esatto, anche perché sarebbe la pubblica amministrazione, l'INPS, che si renderebbe responsabile della situazione dei contribuenti, sì. Cioè perlomeno in automatico. Adesso non so se dico una cosa folle, però... Allo stesso tempo anche, pensiamo, diciamo, le pensioni di solito vengono riscosse agli uffici postali. Ecco, partire subito ex abrupto, diciamo, con una misura del genere potrebbe creare un po' di problemi a chi sta dietro lo sportello e soprattutto ai tanti pensionati che si recherebbero. Insomma, dottor Forte, vuole suffragare i nostri convincimenti? Assolutamente, anche perché poi il decreto sarà di fatto operativo nel momento in cui andrà in gazzetta. Quindi intanto abbiamo ancora qualche giorno. Esattamente, quindi è la fase critica transitoria di passaggio dove tutti si devono organizzare, però volevo poi rassicurare il nostro ascoltatore perché proprio specificamente una norma, un passaggio dell'articolo 12 fa riferimento ai trattamenti pensionistici minimi, agli assegni e alle pensioni sociali, dove la norma stessa appunto prevede che per gli accrediti le operazioni sono esenti dall'imposta di bollo, c'è un divieto espresso alle banche e agli altri intermediari di addebitare ulteriori costi proprio per effetto di questi accrediti che dovranno essere tracciati. Certo che poi mi viene in mente anche un altro aspetto, comunque 500 euro che vengono percepiti da una persona come Giorgio che va allo sportello postale a ritirare sono già teoricamente tracciati perché si sa già quanto l'INPS eroga, quindi voglio dire al limite è capire questi 500 euro come vengono utilizzati dopo, cioè qual è il problema dei 500 euro erogati direttamente dalla pubblica amministrazione. Deborah, credo sia una misura tra virgolette di sistema, cioè nel senso, se si vuole spostare più in basso, cioè se si vuole in qualche modo facilitare l'utilizzo della moneta elettronica, bisogna che tutti i canali siano sintonizzati. Questo è un modo un po' per spingere le pubbliche amministrazioni a farsi parte virtuosa, ed è chiaro che insomma i cittadini un po' più anziani non sono abituati a maneggiare il contante e quindi questo dovrebbe spingerli maggiormente ad avere confidenza con carte di credito e banche. Eccoci ritrovati in diretta, oggi ritorniamo e lo faremo per diverse puntate presumibilmente sulle novità introdotte dalle misure del nuovo governo. Oggi parliamo di lotta all'evasione e delle nuove regole per tracciare i pagamenti, la minor tolleranza sull'utilizzo del contante. Già la manovra di Ferragosto, quella legata all'ex ministro Tremonti, aveva introdotto nuovi paletti in vigore dal 13 agosto per limitare la circolazione di euro in contante, naturalmente contrastare l'evasione fiscale. Non erano più permessi appunto pagamenti in contanti per importi superiori ai 2500 euro, adesso questa soglia viene ulteriormente ridotta, non a 1000 euro. Giovanni Parente, specifichiamolo perché ci ha subito scritto il nostro amico Luca De Stefani, appunto, che è uno dei nostri esperti di questioni fiscali, appunto, ai quali ci rivolgiamo più frequentemente, perché qua si parla di una soglia ancora più precisa. La vuoi dire tu? Guarda, 999,99. Non fino a 1000. Non so se l'hai già detto, ci ha scritto Luca e noi lo diciamo adesso, naturalmente per essere assolutamente precisi e pignoli sulle informazioni che diamo. Allora, abbiamo prima risolto la questione delle pensioni che hanno invece un valore di 500 euro, perché anche in questo caso la tematica è molto dettagliatamente trattata dalle nuove norme, ma andando appunto alla soglia dei 1000 euro, arrotondiamo di nuovo appunto per far arrabbiare Luca De Stefani che ci ascolta, quali sono le problematiche più diffuse che si potranno, non lo so, palesare da parte dei contribuenti, dei cittadini, Giovanni, e che magari non accetteranno, adesso a prescindere dal fatto che magari non c'è un po' di resistenza ancora ancora nel nostro paese ad utilizzare volentieri il bancomat piuttosto che la carta di credito, ma quali altri problemi rischiano di saltare fuori con questa nuova soglia? Io un problema penso cui si potranno trovare di fronte molti cittadini è: viene un idraulico a casa mia. Sempre loro, vabbè. Non trattiamo di idraulico, ci verrà un falegname. Ecco, cambiamo categoria. A casa mia, mi fa un lavoro di 1200. Per cui chiede un importo di 1200 euro. Ecco, io come faccio a pagarlo in bancomat, cioè o con carta di credito? Lui non ha il POS, sarebbe quella macchinetta che troviamo nei negozi attraverso cui strisciamo la carta di credito o il bancomat. Ecco, questo è uno dei problemi applicativi, cioè nel senso, se si vuole fare effettivamente con queste misure la lotta all'evasione, bisogna rendere disponibili strumenti di pagamento elettronici anche a chi, anche al di là dei negozi, degli esercenti. Si può sempre fare un bonifico però a questo professionista. Esatto, questa è la soluzione alternativa, il bonifico. Però facendo in modo, ecco qui torniamo al tema. Che ci sia una fattura corrispondente. Fattura corrispondente allo stesso tempo che il bonifico non mi costi, non debba supportare un costo aggiuntivo, perché se oltre 1200 devo metterci anche il costo del bonifico, l'operazione diventa meno conveniente. Il problema qui, Deborah, è proprio quello che per fare emergere l'evasione bisogna che sia conveniente per tutti. Quindi in qualche modo anche l'Agenzia delle Entrate con delle istruzioni, con delle modalità e quella norma di cui che citato all'inizio, che è sulla trasparenza delle società che fanno tutto attraverso pagamenti elettronici. Il nuovo regime fiscale semplificato? Il nuovo regime fiscale semplificato, che riguarda soprattutto artigiani, piccole imprese, potrebbe dare una mano, essere di complemento a questa nuova norma sulla tracciabilità. Allora, ecco, abbiamo fatto bene a sollevare tutti questi problemi, al fatto anche che naturalmente molti sono perplessi anche dall'utilizzo più diffuso di carta e bancomat, perché effettivamente poi quando qualcuno dice sono, come dire, provvedimenti che in qualche maniera continuano ad aiutare il sistema bancario, hanno anche ragione qualche volta quando lo pensano. Però non sono invece molto d'accordo con Katia, che ci scrive, leggevamo prima con Giovanni a microfoni spenti questo messaggio, perché l'ascoltatrice ci racconta che la sua banca le fa pagare 10 centesimi per ogni operazione bancomat, prelievo e pagamenti. Allora lei dice: sono costretta a prelevare lo stipendio, a pagare solo in contanti. Monti in che paese vive? Io, Katia, affettuosamente glielo dico, lei con che banca tratta? Perché io le posso assicurare che sicuramente non tutte si fanno, non tutte hanno ovviamente delle condizioni vantaggiose per i correntisti, ma le posso assicurare che ormai ci sono delle possibilità di aprire conti a pacchetto piuttosto che utilizzare il canale online, e sono operazioni appunto che possono essere fatte a costi molto più convenienti rispetto a quelli che lei ci indica. Per cui quello che io le posso dire è che possiamo sicuramente dirne tante su queste misure, ma come dire, andando in un altro sportello bancario sono sicura che troverà delle condizioni più vantaggiose e quindi essere più invogliata a utilizzare lo strumento elettronico di pagamento. Andiamo a Claudio da Como. Claudio, buongiorno. Buongiorno e grazie per questo spazio. Guarda, vi sottoporrò un esempio molto pratico che mi sono trovato a fare qualche settimana fa, quindi prima dell'ingresso di questa manovra. Io non ero a conoscenza della soglia dei 2.500, ho trasferito per esigenze di velocità 3.000 euro in contanti dal mio conto al conto di mio fratello. Ora, dal mio punto di vista, questo non si configura come un pagamento, quindi volevo capire come viene disciplinato questo aspetto. Ma l'ha trasferito in che modo? In contanti, erano 6 pezzi da 500. Non le faceva più comodo fare un bonifico bancario? No, perché avevamo bisogno proprio di capitale immediatissimo, il bonifico richiedeva un giorno, un paio di giorni, cos'era, non potevamo permetterci questa cosa. Volevo capire. No, infatti, cioè, voglio dire, ci sono anche delle problematiche concrete nelle quali le persone si possono imbattere, per cui ora chiaramente si scontrano qualche volta anche con la normativa. Nicola Forte, che cosa risponderebbe a questo nostro ascoltatore? Allora, la prima parte dell'operazione è sicuramente corretta, nessun problema, nel senso che io mi presento allo sportello, faccio un assegno di sportello, prelevo la somma, nel caso specifico ipotizziamo che già appunto sia entrata in vigore la nuova soglia, quindi i 1000 euro e quindi i 1200, 1300, 1500, e qui non sto effettuando un trasferimento di denaro contanto a un soggetto diverso, sto semplicemente prelevando, quindi il mio comportamento è corretto. Questo in passato poi è stato chiarito anche con una specifica circolare del Dipartimento del Tesoro Ministero dell'Economia. Quindi un conto è il prelievo, un conto è un'operazione finanziaria legata ad una transazione commerciale. Esatto, ma non necessariamente, perché la norma... O una prestazione dice, professionale. No, no, la norma mi dice che è vietato l'utilizzo del denaro contante sopra soglia, quindi il trasferimento di contanti tra soggetti diversi. E qui nel caso specifico io non sto facendo una transazione, non sto acquistando un bene, sto semplicemente, dopo aver prelevato, sto materialmente trasferendo questa somma su un conto, su una disponibilità appunto di mio fratello, quindi materialmente io prima do la somma a lui e poi materialmente lui stesso provvede a effettuare il versamento. Quindi per la seconda parte dell'operazione effettivamente il problema sussiste, perché la norma, ripeto, non parla di acquisto di beni, anche nell'ipotesi in cui per esempio effettuassi un semplice finanziamento da una società, non è poi ipotesi così poco frequente, esatto, il fatto che io effettuo materialmente in contanti un'operazione di finanziamento nei confronti di una società, qui sto prestando denaro, non sto acquistando nulla, eppure devo rispettare la soglia, quindi bisogna distinguere i vari passaggi. Come risolverebbe lei il dilemma che ci siamo posti prima con Giovanni Parenta? L'ivale idraulico a casa appunto ci fa una prestazione professionale che è superiore ai 1.000 euro, ma chiaramente i tassisti si sono organizzati, ma molti altri professionisti appartenenti ad altre categorie no, non vanno certo in giro con il POS forte. Certo, diciamo. Sono questioni che devono ancora essere chiarite, che secondo lei saranno chiarite? Ma diciamo che secondo me la soluzione, o rimettiamo in pista il vecchio e caro assegno che tendeva a scomparire, perché tutti i carnet assegni riportano la clausola di non trasferibilità e quindi a questo punto posso rimetterlo in pista e fare un pagamento in contestualmente all'esecuzione della prestazione. Qualcun altro, diciamo magari che ha una maggiore dimestichezza nell'utilizzo degli strumenti informatici, ormai buona parte delle abitazioni hanno un collegamento internet, hanno un remote banking, un collegamento con la propria banca e quindi fare in tempo reale il pagamento tramite un bonifico. Ah, con il professionista che ci controlla? Lei dice, mentre l'idraulico fa il lavoro, io contestualmente gli faccio il pagamento, quindi controlla vicendevolmente. Al termine del lavoro, dopo aver controllato che il lavoro è stato portato correttamente a compimento, posso decidere, posso fare il pagamento. Alla fine, invece di staccare l'assegno, darò all'idraulico materialmente la ricevuta. Però insomma tutto però questo ancora è un po' oggetto di fantasia e non lo so se saremo pronti anche a situazioni di questo tipo. Di fatto il problema c'è, il governo se lo dovrà porre su come gestire le prestazioni professionali di importo superiore a 1.000 euro che, se hanno una fattura regolarmente emessa da parte del professionista che riporta una cifra superiore appunto ai 1.000 euro, bisognerà vedere appunto come pagarla. E l'assegno mi pare forte che quindi rimanga al momento la probabilità più forte. Non c'è dubbio, anche perché poi chiaramente noi non dobbiamo trascurare che ormai sì, si è acquisito una maggiore sensibilità nello strumento, nell'utilizzo dello strumento di internet, ma ovviamente non è sempre così. No, infatti. Il problema rimane e va affrontato. Andiamo agli altri ascoltatori. C'è Andrea da Roma che solleva un'altra questione piuttosto delicata. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo appunto fare una domanda, ma prima volevo fare una premessa, perché guardando così su internet gli approfondimenti sul tema ho trovato casualmente un'analisi di Pricewaterhouse fatta dalla Banca Mondiale che proprio analizza i sistemi fiscali nel mondo, a parte che l'Italia è la tassazione più alta d'Europa, questo ormai lo sanno tutti. Vabbè, questo che mi ha un po', quello che mi ha fatto un po'... Perché purtroppo non pagano tutti, magari se pagassero tutti forse si ridurrebbe questa percentuale, ma questa è una polemica vecchia che stamattina non ci interessa. Sì, no, infatti, no, ma mi ha incuriosito che siamo meglio soltanto della Cina, del Tagikistan, Sierra Leone e Gabon, dove ci sono dittature, insomma, quindi io penso che il 68% sia giustificabile solo in uno stato, in una tirannia, in effetti noi siamo in una tirannia mascherata e soltanto persone che non hanno conoscenze di cosa significa produrre reddito, cosa vuol dire togliersi il 68% di questi produttori, parlo perlomeno di chi guadagna meno di 100.000 euro all'anno, che secondo me davanti a Dio e alla storia è legittimato ad evadere le tasse perlomeno per la quota. Vabbè, Andrea, io non sono d'accordo con lei, comunque detto questo, qual è la sua questione che relativa al tema di stamattina voleva sollevare? Volevo comunicare a tutti gli ascoltatori che possono stare tranquilli con la coscienza che evadere le tasse è un diritto divino contro il tiranno. Andrea, la devo chiudere per forza? o vuole andare al tema di oggi? Ecco, appunto, voleva porre un'altra questione. Andrea ci ha gabbato, devo dire che per fortuna non capita spesso a Salvadanaio. Detto questo, andiamo ad un altro Andrea da Torino, che spero non sia così polemico. Andrea, buongiorno. Buongiorno, no, non sono così polemico. La mia domanda è molto semplice. Fino a quando, a pochi giorni fa, il tetto massimo per pagamenti in contanti era 2005. Sì. Quando si andava a fare un prelievo in banca, alla banca ci dicevano di non ritirare più di 2005, anzi 2499, in difetto avrebbero dovuto fare una segnalazione, non so bene a chi, ma comunque immagino all'Agenzia delle Entrate. Oggi sento dire che il limite dei pagamenti è 1000 euro, sì. Ma anche il limite dei prelievi è 1000 euro, o meglio 999, sempre per evitare di essere segnalati all'interno del circuito bancario e all'amministrazione. Anche se non si ha nulla da nascondere, non fa mai piacere. No, infatti, ma poi non è detto, sono procedure anche abbastanza ordinarie che all'interno del sistema bancario avvengono, Andrea, solo che adesso, come dire, acquisiscono maggiore rilevanza solo perché ne raccontiamo di più, solo perché c'è tutto un po' un discorso sull'evasione legato. Ma vero, Giovanni, tutto sommato tutte queste operazioni non è che ci devono sorprendere, perché di norma credo che la banca certe operazioni le segnali internamente e poi non è detto che le comunichi appunto al diretto interessato. Poi no. Dopo andiamo alla questione anche di Andrea. Esatto, cioè bisogna sgombrare il campo dai dubbi, dalle perplessità. Queste misure qui della tracciabilità nascono all'interno della disciplina antiriciclaggio. Quindi vale a dire, queste soglie che sono state via via portate in alto, in basso nel corso degli ultimi anni con un'altalena insomma abbastanza farneticante, che eri già soffermato a lungo su questo aspetto, hanno una finalità, nel senso che chi compie operazioni oltre soglia deve essere soggetto poi a segnalazione all'UIF, che è l'unità della Banca d'Italia che si occupa di raccogliere queste segnalazioni che sono valide per l'antiriciclaggio. È normale che l'abbassamento della soglia serva anche per in qualche modo per controllare meglio i flussi di denaro e che in qualche modo facciano emergere del nero, del sommerso, che altrimenti col contante sarebbe più facilmente occultabile. La novità di questa norma è che nel comma finale proprio dell'articolo si parla che le infrazioni, le comunicazioni delle infrazioni andranno effettuate anche all'Agenzia delle Entrate. Quindi questo di fatto un po' chiude il cerchio, sostanzialmente riuscirebbe in questo modo l'agenzia, se no vanificherebbe tutto l'obiettivo iniziale della riuscirebbe poi l'agenzia a ricostruire anche con i pagamenti tracciati l'effettiva capacità reddituale o di spesa di chi effettua il pagamento e di chi lo riceve. Quindi insomma. Allora, Nicola Forte, ritorniamo a lei. Dunque, dai prossimi giorni, andando in banca, se io volessi fare un prelievo di contanti di 999,99 euro, posso farlo. Se fosse di 1200 euro, che cosa devo fare? Lo posso fare tranquillamente, il comportamento è regolare, non costituisce infrazione. Però, come appunto diceva Giovanni, le banche controllano, devono monitorare questi prelevamenti anche ai fini dell'antiriciclaggio. C'è un indice che è stato elaborato appunto dall'UIF, cioè il soggetto che continuamente effettua delle operazioni in contanti potrebbe essere un soggetto da monitorare e quindi a rischio riciclaggio. Per queste ragioni le banche fanno spesso sottoscrivere un modulo dove mi chiedono sostanzialmente cosa intendo fare con quella somma, ma il comportamento, il prelievo oltre soglia è sicuramente regolare. È evidente che se nel modello, nel modulo, che peraltro la richiesta diciamo non è neppure obbligatoria, ma è un aiuto che viene dato all'istituto di credito, dico chiaramente che quel prelievo oltre soglia, i 1200 euro, è necessario per effettuare un pagamento in contanti, è evidente che sto confessando un'infrazione che commetterò. Allora in quel caso l'istituto di credito è obbligato a segnalare appunto questa infrazione. Diversamente grossi problemi non ce ne dovrebbero essere. No, però ovviamente, per esempio Forte, vado in un centro commerciale, perché lì per l'utilizzo del bancomat e della carta di credito non fanno problemi, vado in un piccolo centro di elettrodomestici, no? Un negoziante sotto casa che ancora ne continua a vendere, devo acquistare un televisore che costa 1200 euro. E il commerciante mi invita, perché lui ritiene di pagare troppe commissioni su questa transazione commerciale, a dargli tutto quanto in contanti. Allora, ammettendo che trova chiaramente il cliente che lo accontenta, chi controllerà su questa operazione fatta non secondo il dispositivo di legge? Mi invita a commettere innanzitutto un'infrazione. È chiaro che in un'operazione... A meno che non ci sia la fiamma gialla che aspetta fuori dal negozio, che è impossibile. Certo, diventa difficile poi in concreto rilevarle. È ovvio che la Guardia di Finanza può sempre effettuare controlli al di fuori dell'esercizio, perché si tratta evidentemente di una violazione che in caso se non rilevata in flagranza diventa difficile da rilevare. Poi ci potrebbe essere un'altra modalità indiretta attraverso la quale questa violazione può venire alla luce, nel senso che il soggetto rivenditore è un soggetto appunto tenutario delle scritture contabili, e quindi se l'operazione sotto il profilo fiscale è trasparente, e dalle scritture contabili si potrebbe appunto desumere, anche se non in maniera completamente chiara e sempre agevole, che il commerciante ha effettuato questa vendita e ha ottenuto una somma in contanti. Questo potrebbe desumersi perché in corrispondenza di un determinato giorno abbiamo un versamento in contanti presso l'istituto di credito piuttosto robusto, ma non è neanche detto che ciò sia, perché chiaramente io vado a effettuare un versamento cumulativo e le singole vendite potrebbero essere sotto la soglia, però in linea di principio potrebbe desumersi dalle scritture contabili. Il professionista tenutario dalle scritture contabili, se nello svolgimento delle sue funzioni si rende conto che il soggetto commerciante ha effettuato alcune vendite sopra soglia ricevendo un pagamento in contanti, è obbligato a segnalare appunto l'infrazione, non più, come veniva ricordato, al Ministero dell'Economia e Finanza, o meglio non solo al Ministero dell'Economia e Finanza, ma anche all'Agenzia delle Entrate. Se il professionista non segnala questa infrazione, può essere destinatario diretto di una sanzione. Di una sanzione, addirittura. Di una sanzione, sì. Andiamo a, dunque, 4 minuti di tempo per ascoltare Luisa da Verona. Luisa, buongiorno. Buongiorno, dottoressa. Io volevo fare riferimento alle persone che prendono fino a 1.000 euro di pensione, diciamo, o di stipendio, e che non hanno un conto corrente, quindi non hanno un bancomat, e che io sappia, ne conosco, non hanno alcuna intenzione di aprirselo, anche perché 1.000 euro servono per pagare l'affitto, per mangiare, e poi una persona si deve sempre tenere in casa dei contanti. Infatti, sì, Luisa, ne abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, quindi... Non lo so, non ho sentito allora. No, non è che lo volevo in questa maniera, cioè, solo per ricordarlo. Nicola Forte, tema molto delicato, interessante, che in qualche maniera dovrà essere preso in considerazione molto seriamente quando arriveranno anche i dettagli delle misure attuative della manovra. Sì, perché il pagamento tracciato a carico appunto dell'amministrazione e delle pubbliche amministrazioni sopra non più i 1.000, o meglio da 1.000 in poi, ma da 500 in poi diventa obbligatorio, e quindi non c'è possibilità di sfuggire dall'apertura di un conto corrente. Come appunto abbiamo già anticipato, saranno definite con un'apposita convenzione tra il Ministero dell'Economia e l'Associazione Bancaria. Però lì il problema di Luisa, cioè il problema, ammettendo anche che possano trovare delle condizioni economiche molto vantaggiose tra le banche, lì c'è proprio un problema di abitudine, di non voler utilizzare il conto corrente, di non voler utilizzare il rapporto con la banca, perché con 600 euro che tu hai in casa, dopo che ci hai pagato l'affitto, ci sei pagato le bollette, dici, ma perché devo andarle pure a prelevare lì dentro? Quindi il tema è un po' questo, che attiene forse un po' poco alla, come dire, giurisdizione economica e finanziaria di un governo. Ci sono tanti altri aspetti da considerare. 2 minuti di tempo, volevo sentire un altro ascoltatore. Anche Teresa dalla provincia di Frosinone voleva porre l'attenzione sullo stesso identico tema sollevato da Luisa da Verona, per cui Andrea, Donato da Bergamo, rapidissimo. Donato, buongiorno. Buongiorno dottoressa, rapidissimo. A fronte di tutto quello che ho sentito stamattina in trasmissione, e per quella miriade di persone, ce ne sono tante in Italia, che hanno pregiudizievoli nei confronti del sistema e quindi non sono in grado, anche volendo, di poter aprire un conto corrente, poter essere possessori di un carnet di assegni o peggio ancora di non avere nemmeno carta di credito o bancomat. Donato, queste grazie. Che hanno questa pregiudizievole. Cosa faranno? Grazie Donato. Nicola Forte. rapidissimo, se ce la fa. Questo è un altro problema, bel problema. Sì, che tra le altre cose è stato in qualche modo già affrontato quando nei confronti di imprenditori, commercianti, professionisti o particolari determinate categorie di soggetti sono stato obbligato a fare versamenti delle imposte online, non senza avere la possibilità di avere certi soggetti un conto. Ma qui francamente io spero che le disposizioni di attuazione nella fase transitoria venga fornito un chiarimento, perché effettivamente altrimenti si metteranno questi soggetti in condizioni, saranno nelle condizioni di dover violare benissimo le disposizioni. Grazie forte, ho tante domande per lei, poi gliele mando naturalmente, ci aiuta a rispondere agli ascoltatori. Grazie molto, in tantissimi ci hanno chiamato. Volevo salutare Alex, che riferendosi all'ascoltatore di prima che diceva che lui si sente nel sacrosanto diritto di evadere le tasse perché ne paga tante in Italia, Alex gli dice: il vostro ascoltatore che vi ha gabbato deve essere segnalato alle autorità, quindi lo dico a Roberto Scaltritti, il mio tecnico, che lo stesso ci diceva questa cosa prima, ne avete l'obbligo in quanto ha commesso il reato di apologia di reato, comunicatelo via radio anche per far capire che non si scherza, non ci si può permettere di fronte alla povera gente e ai cittadini corretti che certe dichiarazioni non sono e non saranno più tollerate. Alex, glielo prometto, spero che anche io sia riuscita a far passare prima il messaggio, lo volevo chiudere molto rapidamente ma l'abbiamo chiuso in tempo. Grazie a Giovanni Parente, a Nicola Forte, Roberto Scaltritti, Marco Lombardo, a domani.